sotto l'antica ambrosia collina c'è una locanda, una legosteria, la birra scura è così sopraffina che a tutti quanti mette allegria. E fu così che per fin dalla luna l'uomo lunatico scese una notte per rimpiazzarsi di birra bruna, voleva averne almeno una botte. Nella locanda un gatto un po' brillo suona il violino tutte le sere, muove l'archetto e pizzica un trillo, ti garantisco lo puoi vedere. E l'oste possiede anche un bel cagnolino che per gli scherzi è una vera passione, ad ogni scherzo muove il codino, se fra i clienti c'è qualche burlone. Hanno persino una mucca fornita di grandi corna che altera cammina, piena di orgoglio come una regina, sempre ubriaca nei giorni di festa. Non per la birra le gira la testa, ma dalla musica viene stordita. Agita il ciuffo che in cima la coda e sopra il prato fa un ballo la moda. L'uomo lunatico ancora indugiava a bere birra golosamente, e poi che l'alba si avvicinava di fuori il gallo era molto impaziente. E insieme un piatto e un bel cucchiaino sulla tovaglia si mise a ballare, mentre la mucca lo stava a guardare tutta impettita fuori in giardino. L'uomo lunatico ancora un bicchiere di buona birra con gusto assaggiò, sotto la sedia stendito dal bere, subito dopo però ruzzolò. Rimase a terra così a sonnecchiare, sognando birra finché su nel cielo tutte le stelle divennero chiare, e l'alba distese nell'aria il suo velo. Visto il suo gatto il robusto stalliere, senti i cavalli rinfrescono al vento, date potenza nel loro cocchiere che porta a casa la luna d'argento. Il loro padrone ha perduto la testa, è così brillo da non capir niente, ma è già finita la notte di festa, tra poco il sole si affaccia d'oriente. Allora il gatto afferrasse il violino e tosto si mise col foglio a suonare un motivetto così sbarazzino che un morto avrebbe potuto svegliare. Mentre il gatto così strimpellava, l'oste il cliente forte scuoteva, sotto la tavola si avvicinava, sono passate le tre, gli diceva. Sulla luna che fra un cielo lo sta ad aspettare, i suoi cavalli lo seguono al tratto, e come un cervo la luna saltella, un piatto sale nel cielo di botto, seguito subito da una padella. Mentre suonava veloce il violino, il cane poi cominciò ad abbaiare, si svegliò tutta la gente vicino, scese dal letto e si mise a danzare. E mentre tutti seguivano il ballo, la gente lo il cane di piatti, oltre la luna la bocca fa un salto, tutti quanti ridonda matti. Rotola svolta la luna rotonda e di trottole veloce scompare, come un bambino che si nasconda sulla sua testa in quell'attimo appare. Il sole che sorge non riesce a capire per qual motivo sebbene sia giorno, tutta la gente ritorna a dormire, ognuno faccia il suo letto intorno. Tutta la gente ritorna a dormire, ognuno faccia il suo letto intorno.